fatto parte così nella mia vita, ho scelto il calcio e avrei pagato per giocare al calcio e ho scoperto poi che invece mi pagavano. E quindi, e poi quando arrivi ad indossare la maglia azzurra è una cosa che ti resta per tutta la vita, ti restano tutti i ricordi, tutte le emozioni, non avere il fiato neanche per cantare l'inno, oppure la maglia azzurra ti resta attaccata alla pelle. Sono ricordi che sono unici, soprattutto quando giochi all'estero ti rendi conto che rappresenti il tuo paese e il tuo paese si aspetta molto da te per avere soddisfazione, per avere immagine anche.